Componimento 36esimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Scherzo. Quando fanciullo io venni a pormi con le muse in disciplina, l'una di quelle mi pigliò per mano e poi tutto quel giorno la mi condusse intorno a veder l'officina. Mostrommi a parte gli strumenti dell'arte e i servigi diversi a che ciascun di loro s'adopra nel lavoro delle prose e de versi. Io mirava e chiedea: «Musa, la lima ov'è?» Disse la dea: «La lima è consumata, or facciam senza». Ed io: «Ma di rifarla non vi cal?» soggiungea, «quand'ella è stanca». Rispose: «Assi a rifar, ma il tempo manca». Fine del componimento 36esimo.